At the end of the previous act, Scotland is at civil war. The king and Rodrigo are both vying for Elena's love, but Elena only has eyes for Malcolm. It's a love quartet in search of a happy ending. Here is the conclusion of La Donna del Lago. Thank you. Oh, man. Adio! Thank you. Fuori di se stesso casa, corri alla reggia. Ho sciagurata appena ho tu il sentir mio dito, che signori infelice. Al par del lampo, dal guardo mio sparì. Stelle spietate, Hey! amici e a voi il tuo furor. Avevo belli mio, più barbaro d'onor, ma mi provo di mio più barbaro d'onor, e voi più barbaro d'onor. Guerra arde la face e la mia morte basta spegne la pietra. Ma sulla figlia e su quanti pietosi al mio destino mi difesero in campo, scenda la tua clemenza. Ora serbate al mio sdegno costui. Attendo tranquillo ai cenni tuoi. Attendi, il re fra poco ti ascolterà. Riccia, ove nacqui, o quanto fremo in veder. Gli sventuri miei tu fosti culla, sai di te più grato mi era l'albergo. Ove or nel padre, or nell'occhietto amato, asci lo sguardo e l'arpo sovallato. Ma qui sola, ove rei, che il regio spetta, Thank you. me che chiedi. Tu donna rammenti. Oh sì, tu stesso mi guidare. Pazienza mia, breve istante non indugiare, sacro dovere fino al trono mio vicino. Ebbene, tu il vuoi, e chi s'opporsi a desideri tuoi? Perdono, venga Malcolm. da Gio punire in te. Ma prence, il fallo mio, pietà non merda, e dell'error ben degna rai tu era. Sorgi, e questo sia pegno del mio favore. Correggi la destra, siate felici. Il ciel vi arrida. O cielo! O re clemente! Altro avrà martiresta? Io sì, al piacere che gioia è questa. Thank you. Yeah.